L'onda lunga dell'asfalto schiaccia le parole, sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi. Il ritorno porta addosso mal di testa e mal d'anima. Nei silenzi ognuno piano fruga dentro di sé. Onda al coma proverò a riemergere dalle nebbie mie lisergiche. Oh madonna che ora era, era oggi o ieri sera, 20 notti e poco giorno, me ne sento ora che torno, ora che la fiesta è andata, bacio amore gioia infinita. Come un rio, come il mare, come il sole, gioia. Vibra buona per averla sempre quando uno suona. Porto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi. E qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce. Scosse forti all'anima che nessuno scorderà più. E questo il bardo lo sa, lo illumina le città cantandosi di mena. Un viva la strada, un viva l'amicizia vera, che è una cosa rara.